Intanto ribadisco perché ho voluto questo last minute dedicato a Berchidda Live, perché è questa sera alle ore 20 l'anteprima al cinema modernissimo di Bologna, sarà presente Paolo Fresu e gli autori, quindi ribadisco, è questa sera giovedì 11 aprile alle ore 20 cinema modernissimo di Bologna, Berchidda Live. Dopo questa piccola coda che ho ripreso dal Last Minute in Musica, andiamo in mostra. Allora, in mostra conosciamo già questo autore originale, unico, è un autore che trova lo sviluppo nell'arte portando nello spazio quello che è un'impossibilità, un paradosso, una curiosità che ha colpito sempre di più un pubblico attento, è stato a sua volta un po' snobbato dalla critica, ma ha sempre avuto un grande successo per quanto riguarda l'estensione di pubblico. Fra l'altro, lunedì di Pasqua appena trascorso, mi trovavo a Ferrara, volevo andare a Palazzo dei Diamanti, dove sede espositiva per Maurizio Cornelis Escher, e non sono riuscito a entrare. C'era una fila veramente interminabile. Beh, ovviamente contrariato, ma sotto un certo punto di vista anche contento che abbia avuto questo riscontro. Il nome di Escher è assolutamente legato alle incisioni, alle litografie, che tendono, come ho detto in precedenza, a presentare costruzioni impossibili, paradosso portato a realtà, esplorazioni dell'infinito, tassellature del piano e dello spazio come motivi di geometrie interconnesse che cambiano gradualmente, ma che portano un percorso costante a voler saperne di più, a cercare di entrare all'interno delle figure di Escher. E questi protagonisti, a sua volta in diverse opere che a me hanno colpito moltissimo, penso di averlo visto 4 volte Escher nelle esposizioni, e certamente non mancherò di recuperare anche quella a Palazzo dei Diamanti, perché un artista così certamente porta continuamente motivo di stupore ad ogni esposizione. Se mai avete avuto la possibilità di essere presenti, di visitare un'esposizione con protagonista Escher, assolutamente consigliatissimo. Allora, io ho contattato Federico Giudice Andrea, che è il curatore dell'esposizione Estense a Palazzo di Diamanti. Io direi di iniziare la nostra conversazione per conoscere il progetto e quale Escher è stato portato a Ferrara. Troviamo l'Escher che conosciamo tutti, innanzitutto troviamo l'Escher che fa queste cose impossibili, come ha raccontato, e dove ci sono delle scale che non si capisce se vanno su o in giù, dove c'è l'acqua che a modo in moto perpetua fa girare le pale di un mulino, dove ci sono i monaci che continuano a salire sulle scale e a un certo punto si trovano al punto di partenza. L'Escher dei paradossi, l'Escher che è riuscito a rappresentare l'impossibile. E in questa mostra vedremo un po' il percorso di quest'artista, perché forse non tutti sanno, ma Escher è stato da giovane, dopo finito gli studi, qui in Italia per 14 anni e faceva il paesaggista, girava il nostro paese, e già allora però era alla ricerca di queste architetture, di queste prospettive un po' particolari, delle cose, cercare di vedere molto dall'alto, dal basso, cercava di unire i punti di fuga proprio per creare queste suggestioni già allora come paesaggista. Escher lascia poi il nostro paese nel 1936 a causa un po' dei dissapori politici. Allora chiaramente durante il fascismo si trovò in situazioni un po' difficili, perché venne arrestato in occasione di un attentato al re, perché cercavano un colpevole, anche se la cosa era successa tanti chilometri lontano, perché era successo a Milano, lui si trovava in Abruzzo. Poi venne arrestato, ci vuole l'intervento dell'ambasciata per farlo uscire, e queste cose insieme ad altri episodi convinsero Escher che era meglio lasciare il nostro paese. Fece poi un ultimo viaggio nel Mediterraneo, si trovò a visitare l'Alhambra in Spagna, dove si innamorò delle tasselature dei Mori, che erano modi di curare i grandi edifici dei Mori che governavano la Spagna nel 1400, e si innamorò di questa tecnologia, di questo modo di rappresentare, di abbellire i palazzi, e suo fratello, che era un cristallografo, lo introdusse alla matematica della trasformazione del piano. E ci fu il primo incontro, diciamo, fra Escher e la matematica. E da lì poi tutto il percorso di tessellatura, poi incontri matematici al congresso di Amsterdam di matematica, dove incontrò Roger Penrose, e questa grande collaborazione, questa lunga collaborazione tra matematici, perché molte delle opere di Escher sono proprio ispirate da matematici. E tutto questo percorso lo vedremo posto a Ferrara, e tutti quanti, credo, spero, che capiscono, vedano come questa arte lentamente si modifica, si fino ad arrivare a fare quelle cose meravigliose che l'hanno reso poi famoso. Dare come colonna sonora Escher il grande Anthony Braxton in questo disco, dove le scale, esattamente musica a scale, sembrano veramente, danno la sensazione delle scale, dove la curiosità dell'ascolto porta a livello ascensionale o in maniera calante a scendere, no? La curiosità nelle note, allo stesso tempo, oltre che da ascolto, anche un aspetto visivo, come ha saputo trasformare questa emozione il genio di Escher. Le architetture impossibili diventano architetture sonore impossibili con Anthony Braxton, che ho voluto mettere in comparazione con Maurits Cornelis Escher. Anche Braxton è un matematico della musica, eh? È arrivata una velina in redazione, intanto grazie per l'informazione. Onde evitare giustamente questa sera le proiezioni per il Modernissimo e la Cineteca sono sospese, ovviamente per motivi di sciopero e per la questione che abbiamo trovato costantemente nel disastro che è capitato a Bargi, in territorio di confine tra l'Appennino Tosco e Emiliano, e quindi la sospensione dei programmi per questa sera. A causa dello sciopero nazionale indetto per domani, inizialmente di 4 ore ma ora esteso in Emilia-Romagna l'intera giornata lavorativa, dopo il terribile incidente di Suviana, non è possibile garantire la regolare apertura delle sale cinematografiche. Pertanto la proiezione del film Berchidda Live, programmato per la sera dell'11 aprile a Bologna, è rimandato a data da destinarsi. Siamo per i diritti del mondo del lavoro e siamo vicini al cordoglio delle famiglie di coloro che hanno perso la vita e ai feriti. Personalmente sento in maniera personale questa tragedia, avendo vissuto per 20 anni nel comune di Castel di Casio, a 2 passi dal lago di Suviana. Paolo Fresu riporta queste parole. Mostra Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Escher, che tra l'altro Escher, come vi ho detto in precedenza, è molto curioso perché non ha avuto un grande entusiasmo da parte della critica, è sempre stato un po', permettetemi il termine, snobbato, mentre invece dal pubblico ha avuto dei risultati, ne ho avuto la prova qualche giorno fa, veramente molto molto intensi, e per quanto riguarda alcune delle sue immagini più iconiche, tutte per me sono immagini iconiche. Beh, Natura morta con specchio è qualcosa di eccezionale. Ancora possiamo trovare Mani che disegnano, queste due mani che disegnano loro stesse, dando una continuità con una figura veramente che dà stupore, non riesci a togliere lo sguardo davanti a questa continuità e anche a questa estetica, e la realtà di riflesso che troviamo invece in una pozzanghera con il passaggio di pneumatici, e si vedono, no, nella pozzanghera questo passaggio di un'automobile crea una pozza dove l'acqua riflette, diventa uno specchio, un paesaggio. Anche questo ha una originalità oltre che una fantasia. E quanto sia stato in studio per quanto riguarda il paesaggio italiano, come ha detto il curatore Federico Giudice Andrea per la mostra Palazzo dei Diamanti. E quindi procediamo anche per le sezioni, anche per il percorso in mostra. Perché restiamo così affascinati a ammirare questo impossibile, questo paradosso? Ma io credo che sia legato, perché Escher, come pochi altri, ha colto lo spirito del secolo passato. Cioè il nostro secolo, il Novecento, ha praticamente le teorie scientifiche che sono scaturite, che hanno caratterizzato questo secolo passato, sono teorie in realtà paradossali, di cui sentiamo parlare, ma in realtà non è che le capiamo bene, perché quando si parla di spazi curvi, no, che sono cose che facciamo difficile immaginarci, no? E la stessa cosa vale per esempio per la teoria dei quanti, dove la realtà dipende dall'osservatore, cioè l'osservatore che proprio osservando la realtà la determina. E queste sono cose paradossali che hanno certamente caratterizzato forse un po' tutto il secolo scorso, e essere uno degli artisti non è l'unico, per esempio anche il cubismo, no? Interpreta queste cose con le prospettive fatte da diversi punti. Escher, forse più di altri, coglie questi paradossi e li trasforma, facendo vedere che i sensi, quello che noi percepiamo l'apparenza non deve necessariamente corrispondere alla realtà. E questo credo sia il messaggio che inconsciamente tutti quanti capiamo, rileviamo guardando le opere di Escher. Crediamo che si possono rappresentare delle cose che sono anti-intuitive, anti-paradossali, vanno oltre l'apparenza, e questo è il grande messaggio che Escher ci lascia. E noi, quando usciamo alla fine della mostra, capiamo che forse la realtà è molto più complessa di quanto ci immaginiamo, oppure possiamo soltanto comprendere con i nostri sensi. Ha parlato di un Escher anche legato a un aspetto figurativo, chiamiamolo più canonico. A cosa si ispirava Escher? Escher, come ho detto, si ispirava innanzitutto all'inizio al paesaggio, all'architettura, e quindi alle leggi dell'architettura. Però poi diciamo la grande ispirazione viene proprio dalla matematica, questo incontro con i matematici, con Roger Penrose, con Harold Coxeter, che sono matematici che hanno avuto una lunga frequentazione con Escher, e che proprio gli davano i modellini, chiaramente i matematici davano la famosa triangolo impossibile, venne sviluppato da Roger Penrose e ne fece un modellino che diede ad Escher, oppure la scala, si chiama proprio scala di Penrose, oppure il piano di Poincaré. Sono proprio strutture matematiche che i matematici chiaramente gli facevano vedere le figure, non tanto le formule, perché Escher era un grafico, però lui guardando queste figure ne capiva e da grafico sviluppava questi concetti mettendoci intorno, raccontando delle storie. E la cosa interessante è che tra l'altro tutti questi paesaggi che ci sono, per esempio nel Waterfall o in Belvedere, sono, vedete bene, i paesaggi sono quelli italiani, cioè c'è il ricordo dell'Italia che lui trasporta in queste strutture matematiche, e quindi c'è da un lato l'ispirazione del paesaggio italiano, dall'altra l'ispirazione che viene dalle strutture matematiche. Ascolto la precisa irregolarità di Braxton, più il paragone con Escher e colonna sonora naturale. Oltre che dal pubblico, le sue opere sono molto amate da matematici, scienziati, logici e fisici che apprezzano l'uso così razionale, se vogliamo impossibile, di poliedri, di distorsioni geometriche, di interpretazioni così originali di concetti appartenenti alla scienza, per poi dopo trasformarle in un aspetto di estetica artistica unica. We'll be right back. La mano che sostiene una sfera che riflette il viso dello stesso Escher in questo particolare ritratto. Sto elencando alcune opere che hanno colpito molto, e per uno come me che odia tutto ciò che è matematica, fisica, soprattutto, insomma, vederla così in espressione artistica è un po' anche una sorta, se vogliamo, di fare pace con tutto ciò. Nulla è come appare, e anche l'impossibile, se visionato in un determinato modo, diventa un paradosso che può sembrare realizzabile, grazie all'arte. Ecco, come ha detto il curatore giudice Andrea ai microfoni di Radio Città Fujiko, Escher, tra le tante sensazioni, ha proprio questa, di portare la curiosità e di dare lo stimolo ad analizzare tutte le situazioni, non nell'immediato, ma di approfondire anche, perché nulla è come sembra, nell'immediato, appunto. Grande attenzione anche all'architettura, insomma, diverse, come ho detto, sono le espressioni che si possono trovare in questo artista. E quante opere troviamo a Ferrara? Quante opere troviamo in mostra? Sono 130 opere su per giù di Escher, tutte le più importanti, più la parte italiana che è molto ben sviluppata, dove ci sono molti esempi di questi paesaggi che lui faceva girando per il nostro paese. Suddivisione in sezioni, percorso in mostra? Allora, si parte dall'inizio, quindi si parte proprio dal suo periodo, ci sono alcune opere proprio che fece ancora quando faceva la scuola di arte grafica a Haarlem in Olanda, poi ci sono tutta una serie di opere fatte nel primo periodo italiano, il periodo dei paesaggi, poi c'è l'Alhambra, come ho detto, con l'inizio dello studio delle tessellature, e poi Escher inizia a usare tessellature per far raccontare delle storie, lui le chiama metamorfosi, e tutta la serie delle metamorfosi, fino al 54, dove queste metamorfosi, queste strutture regolari di suddivisione dello spazio vengono viste nel 54 durante il congresso di matematica dai matematici, e c'è tutta la parte invece finale che è questa collaborazione con i matematici per fare, diciamo, le strutture impossibili, ma non solo, perché anche Escher amava disegnare i poliedri, le strutture anche matematiche dei solidi platonici, cose che lui chiaramente interpretava da artista, ma che hanno un significato e un sottofondo matematico. Io la ringrazio tantissimo, ricordando che è fino al 21 luglio 2024 a Palazzo dei Diamanti, Escher. Ringrazio Federico Giudice Andrea, curatore dell'esposizione. Appuntamento a un altro incontro in mostra su Radio Città Fujiko, e buona giornata. Grazie, buona mostra a tutti. We'll be right back. Jean Zio, ritrovato questo musicista per Label Bleu, già ho proposto qualche disco, mi sta affascinando molto la ricerca su questo pianismo monchiano, se vogliamo, ma nel contemporaneo e nello sviluppo sonoro assolutamente anche dotato di originalità e gusto. Se lo troviamo per Label Bleu, lo troveremo anche al Torrione per il termine della stagione 2024 per quanto riguarda la stagione ferrarese. Ma a Ferrara Moritz Cornelis Escher sarà Palazzo dei Diamanti e per la precisione fino al 21 luglio 2024. Quindi ho unito mostre e musica nella città, nella vicina splendida città Estense, oltre che la musica di Anthony Braxton, che per me riprende l'arte di Escher in maniera sonora, Escher visiva, è un discorso assolutamente parallelo. Dopo la metà del 1400 continueremo a parlare di matematica prospettiva, lo faremo andando al Museo Paul di Pezzoli e tra pochissimo, dopo la pubblicità, si continuerà con la rubrica Regola d'arte di Radio Città Fujiko in mostra, a tra poco.